Ahimè, tutto cambia e anche il Papa non è più quello di una volta. Non so se ve ne siete accorti anche voi, ma da qualche tempo l'atteggiamento dei media nei suoi confronti è sottilmente ma percettibilmente cambiato. Nei soliti commenti esaltatori, nelle tradizionali cronache grondanti, trionfalismo e piaggeria, si è insinuata poco a poco una nota di compassione, velata magari da un filo di condiscendenza. Il Papa, il vecchio Papa, come sempre più spesso lo si definisce, comincia a far pena. D'altronde, vi confesso che un po' di pena la fa anche a me, che non avrei mai pensato di poter nutrire un sentimento del genere per uno come lui. Ci volete fare? Quel vecchio sacerdote polacco è così ostensibilmente malconcio, così pubblicamente sofferente mentre s'aggrappa tremante alla croce per chiedere perdono dei peccati della sua chiesa, leggendo un testo che occhiuti ecclesiastici in ottima salute hanno provveduto cinicamente a sterilizzare, perché è vero che il Papa è infallibile ma i papi passano la curia resta, o mentre si trascina a fatica nella terra dove è vissuto il suo signore a costo di stringere la mano a una serqua di monarchi ambiziosi e di astuti politici levantini, tutta gente a cui non potrebbe importare di meno di giubilei, di pellegrinaggi e di papi, ma che cerca di trarre dalla sua visita ciascuno il guadagno che può, a costo di costringerlo a visitare uno dopo l'altro due distinti luoghi del battesimo di Gesù, uno in Giordania, l'altro nella West Bank, che va bene che è un'ubicazione tradizionale, un valore soprattutto simbolico, ma allora non si capisce perché andarci in pellegrinaggio, insomma. Mentre si vede tutto questo, un po' di compassione è praticamente obbligatoria. Quel povero vecchio, l'esclamazione che sfuggì oltre un secolo fa alla penna del pur antiquerilissimo Carducci a proposito di Pio IX, si forma quasi automaticamente sulle nostre labbra o sui tasti dei nostri computer, prodotti di un'epoca che l'antiquerilismo, tra l'altro, non sa più neanche cosa sia. È vero che non si può ignorare che quel vecchio dolente è stato ed è tuttora uno dei potenti del mondo, e che della sua potenza ha usato e usa in modi e affini che non siamo tenuti a condividere, ma questo non inibisce necessariamente la compassione. La vecchiaia, in fondo, è il momento in cui ci si rende conto di come tutta la potenza terrena serva davvero a poco, e non credo che nessuna dimestichezza professionale con l'aldilà possa confortare un granché chi giunge a questa consapevolezza. Da questo pietismo un po' imbarazzante, perché si rivolge comunque a un personaggio il cui operare tu consideri altamente nocivo, ti salva provvidenzialmente una lettera della tua banca. La trovi nella casella della posta, la apri un po' ansioso, perché è raro che le comunicazioni delle banche portino notizie positive, quali quella dell'accredito di grosse somme sul tuo conto. È più facile che annuncino spese impreviste, imposizioni, balzelli, vessazioni varie. Comunque tu la apri e ci trovi una lettera che ti informa che la banca in questione e il gruppo Tal dei Tali hanno siglato un accordo per riservarti la possibilità di acquistare una creazione di alta qualità e prestigio, quale la stilografica del Giubileo. Si tratta, apprendi, di una penna stilografica di indubbio valore, realizzata in soli 2000 esemplari numerati da un marchio internazionale prestigioso che ne ha curato ogni particolare per renderla adatta a celebrare l'evento più importante di fine secolo, anzi di fine di millennio. A te, caro cliente, vengono riservate particolarissime condizioni d'acquisto e la possibilità di pagare anche a rate. Non solo. Nel caso acconsentissi all'offerta, riceverai gratuitamente l'intera raccolta del giornale del Pellegrino, unica testimonianza ufficiale dell'anno 2000 del Giubileo. Per avere, senza alcun impegno, maggiori e più dettagliate informazioni, basta spedire la cartolina allegata. Che cosa c'entri con il Giubileo una penna stilografica non è chiarissimo. Nella busta c'è anche un pieghevole a colori che ti ricorda in prima pagina come nel 1300 una penna firmava il primo Giubileo della storia e che oggi un nuovo magnifico oggetto di scrittura firma il grande Giubileo del 2000, ma il collegamento, lo riconoscerete, è un po' debole, anzi suona vagamente truffaldino. Ed è improbabile comunque che Bonifacio VIII Buonanima si sia servito per sottoscrivere quello storico atto di un oggetto simile a quello che ti viene proposto, che è una penna in argento con finiture d'oro, rubino cabochon sulla sommità del cappuccio, pennino in oro a 18 carati, portapenne rifinito in pregiata pelle di coccodrillo e ampolla per l'inchiostro in cristallo con la chiusura in argento. Ampolla, il tutto per una cifra che per delicatezza non ti viene specificata, ma che ti sarà comunicata senz'altro se sarai tanto storto ad inviare l'apposita cartolina. Dopodiché immagino sottrarti alle sollecitazioni che ti giungeranno saranno davvero cavoli amari. Mentre ti appresti alla cenare busta lettera e pieghevole per avviarli al cestino della carta straccia, rifletti sul fatto che il cinismo e la grossolanità di certi imbonitori non hanno veramente limiti. Nulla osta ormai, visto che Bonifacio VIII, all'atto di firmare la bolla del 1300, indossava probabilmente un paio di braghe e calzava qualcosa ai piedi, che ti arrivi un giorno o l'altro la proposta di acquistare il set di mutande del giubileo in finissimo lino impunturato a mano o la pubblicità di un paio di raffinati mocassini pontificali. Poi l'occhio ti cade su una chiosa in carcere opuscolo. L'iniziativa, riservata ai clienti della tua banca, è stata autorizzata niente di meno che dal Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'anno 2000, organo di cui fino a quel momento ignoravi l'esistenza ma che non ti dice nulla di buono. Ed è, udite udite, licensed by the Vatican, su licenza del Vaticano, licenza numero 3606, 3606. Chissà quali articoli, ti chiedi oziosamente, si riferivano le prime 3605 licenze, per non dire di quelle successive, ma tanto è una curiosità oziosa. Nella serena fiducia che il tempio resta saldamente presidiato dai mercanti, riduci il tutto a minuti frammenti. E il Papa, mi direte, che c'entra? Ah, niente, lui non c'entra niente, infatti. Il vecchio pastore non si occupa di certi commerci, si occupa solo e soltanto di anime. Sospettare il contrario sarebbe semplicemente offensivo. Ma è anche vero che l'anima del commercio è la pubblicità.